sai che è da quando ha attraversato quella linea che non sono più capace di sentirmi me. Mi sento come fossi, sai che c'è. Guardando bene ho visto una luce che mi sta portando molto lontano. Mi fa stare bene. Sento quel qualcosa nell'aria. Lasciami ancora un po' qui a pensare che oggi il mondo vuole me. Ha detto che senza di me la festa non può iniziare. Oggi il mondo vuole anche te. Credici, non è un'impressione. Questa è la nostra occasione. Non buttarla via. Ecco che i riflettori sono puntati e stento a credere che la cosa mi piaccia. Ecco che finalmente siamo ad un bivio e cosa decidiamo di fare? O restare. Questa è la nostra occasione.